La digitalizzazione è in accelerazione costante, continua e il pedale è stato premuto al massimo durante l'emergenza. Non vuol dire ormai soltanto il passaggio dalla modulistica cartacea a quella digitale, ma ora significa una regia digitale. Le aziende necessitano oggi di un direttore d'orchestra che deve avere la giusta visione d'insieme e sapere dirigere l'orchestra digitale per far uscire la giusta melodia. Stiamo parlando del Chief Digital Officer, l'esperto di digital transformation che ha il compito di aiutare le aziende a rimanere competitive e a cavalcare la crescente digitalizzazione per realizzare la fabbrica digitale, un mix di competenze ed esperienze che si imparano soprattutto sul campo, e ci spiega come Luca Manuelli, Chief Digital Officer. Il ruolo del Chief Digital Officer è un ruolo relativamente nuovo che si è venuto a creare quando, appunto, sulla spinta della cosiddetta industria 4.0, lo sviluppo di nuove tecnologie che potevano abilitare un'accelerazione dell'introduzione dell'innovazione tecnologica nelle aziende, in particolar modo nel settore manifatturiero, ha richiesto appunto un'evoluzione di quelle che erano le competenze necessarie per sfruttare al massimo queste nuove tecnologie, in particolar modo tenuto conto delle caratteristiche del fatto che molte di queste tecnologie rispetto a quelle del passato, come dire, sono più user friendly o comunque più facilmente applicabili. Il Chief Digital Officer non è stato tanto un'evoluzione di una competenza tecnica o tecnologica che già i responsabili dei sistemi informativi, il cosiddetto Chief Information Officer, esprime, quanto la possibilità di avere delle persone in grado di conoscere il business, il mercato, i prodotti, i processi dell'azienda e di coinvolgere a tutti i livelli dell'organizzazione tutti i responsabili che sono in grado di dare un contributo e partecipano al processo di trasformazione digitale, avviando un vero e proprio processo di orchestrazione, diciamo, di attività, introducendo anche modalità di lavoro un po' diverse rispetto al passato, quindi cercando di rendere anche aziende complesse e articolate più agili, cercando di promuovere anche lo sviluppo di progetti innovativi attraverso anche il coinvolgimento di realtà interne ed esterne che possono avere o una maggiore conoscenza appunto del prodotto e del processo o una conoscenza di quelle tecnologie che possono aiutare a portare avanti dei processi innovativi. Quindi il Chief Digital Officer deve avere una forte conoscenza del prodotto, dei processi, una forte sensibilità delle tecnologie, ma soprattutto deve essere una persona in grado di far lavorare insieme tanti attori diversi all'interno e all'esterno dell'azienda. In fondo è una figura che tira le fila di tutta la parte digitale o meno, cioè integra tutte le professionalità in azienda, quindi deve avere un occhio a 360 gradi, insomma, sull'azienda. Ecco, qual è la sua giornata tipo per far capire appunto quali sono le competenze che deve mettere in campo giorno per giorno? Il ruolo che io ho interpretato è stato quello poi ovviamente di riuscire ad accorciare un po' le distanze di tutti gli attori che devono essere coinvolti in questo processo. In altri termini, diventa molto importante, più che avere un'unica persona che sa di tutto, un tuttologo, riuscire a trasferire conoscenze e competenze dei prodotti, dei processi e delle tecnologie in capo a tutti gli attori ovviamente che vengono coinvolti. Per esempio nel nostro progetto più importante, quello del Lighthouse Plant, quindi della fabbrica faro di Ansaldo Energia, noi abbiamo coinvolto più di 1000 persone che fanno parte non solo della fabbrica e lavorano in tutte le fasi, diciamo, dell'organizzazione, quindi a livello di operatore al capolinea, a caporeparto, processi di manutenzione, ingegneria di fabbrica, il capo fabbrica, ma anche tutte le altre funzioni aziendali che collaborano al processo produttivo, dandogli, diciamo, la possibilità di formarsi alle nuove tecnologie, quindi comprendendone bene le potenzialità e quindi poi affidando la responsabilità di gran parte dei progetti e delle iniziative che concorrono alla fabbrica Faro in capo a persone che sono responsabili della linea produttiva. Quindi abbiamo in alcuni casi appunto questo tipo di responsabilità, in altri casi invece dove prevale probabilmente la componente tecnologica abbiamo messo persone che hanno un background di sistemi informativi. Quindi questa orchestrazione significa riuscire a lavorare fondamentalmente insieme ai responsabili dei processi, nel caso specifico della manifattura della fabbrica, per definire come migliorare il processo, lavorare con le strutture interne e esterne che dominano la tecnologia per capire le potenzialità, creare un meccanismo anche di pianificazione e di controllo di questa attività dal punto di vista economico e finanziario, perché ovviamente questi investimenti poi devono generare dei benefici e inserire anche delle competenze nuove, delle risorse nuove, delle figure professionali che prima di Industria 4.0 all'interno dell'organizzazione non erano codificate e che oggi piano piano stiamo inserendo, talvolta coinvolgendo realtà esterne, ma in alcuni casi proprio avviando o riqualificando, diciamo, figure interne che allargano le loro ambito di competenza e quindi gestiscono questi ruoli che sono particolarmente importanti in questo nuovo scenario. Due parole chiave: Industria 4.0 è una orchestra di diverse professionalità. Un consiglio sulla formazione: lei parte già da una formazione, quali consigli si possono dare per una formazione digitale in funzione di professionalità che sono utili a Fabbrica Digitale, a tutto il mondo di Industria 4.0 e alla digitalizzazione delle imprese? Io sono partito come economista, io sono laureato alla LUIS, poi ho fatto un Master in Business Administration. Per molti anni mi sono occupato soprattutto della parte, diciamo, marketing e strategie per quanto riguarda in particolar modo attività di servizio in contesti ad alta tecnologia o manifatturieri, e poi progressivamente ho affinato il tema delle nuove tecnologie. L'amore è scoppiato poi quando ai tempi di internet ho avuto anche un'esperienza imprenditoriale e ho in qualche maniera avviato una startup in partnership con alcuni importanti operatori nel mondo editoriale. Finita questa esperienza, sostanzialmente nella mia esperienza successiva ho sempre consolidato questo ruolo di tecnologia legata un po' all'utilizzo delle tecnologie digitali in ambiti manifatturieri ad alta tecnologia. Col suo curriculum è veramente esemplificativo, fonte di consigli anche sulla formazione futura. E che cos'è la fabbrica intelligente e come può aiutare imprese e persone a trasformarsi per il futuro? Allora, diciamo che per noi la fabbrica intelligente è un concetto che porta la fabbrica a immaginarla sempre con una centralità del capitale umano, del fattore umano. Per noi, diciamo, le tecnologie di automazione, che peraltro abbiamo adottato, sono importanti, ma nel momento in cui ovviamente aumentano le capacità delle nostre risorse umane di poter gestire e coordinare questi processi. Quindi l'obiettivo della nostra trasformazione digitale è avere una fabbrica cosiddetta data driven, quindi una fabbrica in grado di produrre dati e informazioni a supporto della gestione dei processi e della presa di decisioni da parte di tutti gli operatori della fabbrica a tutti i diversi livelli, nuove modalità di lavoro che non necessariamente devono essere svolte fisicamente nella fabbrica, ma possono, come in uno scenario critico come questo, essere fatte in modalità remota, quindi attraverso processi di smart working. Sia in emergenza sanitaria sia nel futuro, comunque questo periodo è stato anche un insegnamento di come fare cluster, fare diciamo rete, network, e soprattutto digitalizzare processi e persone è fondamentalmente il futuro, è così? Sì, assolutamente. L'esperienza di Ansaldo Energia, poi quella più recente, da circa un anno sono appunto presidente del cluster Fabbrica Intelligente, è quella di contribuire alla creazione di un ecosistema collaborativo in cui tutti gli attori, i cosiddetti stakeholder dello sviluppo e dell'applicazione dell'innovazione nel settore industriale e manifatturiero in particolare, possano lavorare su temi di roadmap, quindi di traiettorie di innovazione tecnologica, come anche delle competenze necessarie per sviluppare ed applicare tali tecnologie, e fornire poi attraverso progetti dimostratori come quello della fabbrica Faro la possibilità di vedere applicati i risultati, diciamo, di questi investimenti, di questi sviluppi, e favorire quindi l'adozione di queste anche in realtà non solo alle grandi aziende ma anche a tutte le piccole e medie aziende che ovviamente talvolta sono eccellenti nel loro specifico prodotto o tecnologia, ma hanno spesso un digital gap e hanno quindi dei limiti nell'utilizzo di queste nuove tecnologie. Però molte aziende non sanno di averne bisogno, probabilmente punti di riferimento come la fabbrica intelligente danno anche uno sportello di informazione, e l'appello è rivolgersi per le PMI a chi può guidarle e fare da apripista. Noi come cluster stiamo lavorando ovviamente con una serie di stakeholder, in particolar modo con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Università e della Ricerca, con la stessa Confindustria, perché per attirare l'attenzione anche sul mondo delle start-up, delle piccole e medie aziende innovative, che in una fase di crisi ovviamente sono molto vulnerabili, e quindi la necessità comunque di tenere una visione sul tema dell'innovazione anche nel cosiddetto new normal, che permetta a queste aziende di poter andare avanti, di superare, come dire, la nottata. Certo, e anche per i lavori di domani. Mi permetto di dare un consiglio anche per i giovani che si accingono ovviamente a completare gli studi. Ecco, il percorso delle start-up può essere un interessante percorso, diciamo, alternativo rispetto a quello di lavorare all'interno dell'azienda, perché le start-up sempre di più cominciano ad essere delle ottime palestre per poter sviluppare competenze e capacità e lavorare su progetti industriali che poi permettono spesso, soprattutto quando la relazione fra la grande azienda e la start-up si consolida, anche di poter prevedere il passaggio di personale che viene formato appunto nella start-up all'interno dell'azienda. Quindi questo è un ulteriore percorso, diciamo, di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro che mi sentirei di raccomandare.